777. Tè. La coltivazione del tè è quasi esclusiva della Cina e del Giappone ed è per quegli stati uno dei principali prodotti di esportazione. I tè di Giava, delle Indie e del Brasile sono giudicati di qualità assai inferiore. Le sue foglioline, accartocciate e disseccate per essere messe in commercio, sono il prodotto di un arbusto ramoso e sempreverde che non si eleva in altezza più di 2 metri. La raccolta della foglia ha luogo 3 volte all'anno, la prima nell'aprile, la seconda al principio dell'estate e la terza verso la metà dell'autunno. Nella prima raccolta le foglie, essendo piccole e delicatissime perché spuntate da pochi giorni, danno il tè imperiale che rimane sul luogo per uso dei grandi dell'impero. La terza raccolta, in cui le foglie hanno preso il massimo sviluppo, riesce di qualità inferiore. Tutto il tè che circola in commercio si divide in 2 grandi categorie: tè verde e tè nero. Queste poi si suddividono in molte specie, ma le più usitate sono il tè perla, il souchong e il pekoe a coda bianca, il cui odore è il più aromatico e il più grato. Il tè verde, essendo ottenuto con un'essiccazione più rapida che impedisce la fermentazione, è più ricco di olio essenziale, quindi più eccitante, e però è bene astenersene o usarlo in piccola dose frammisto al nero. Nella Cina l'uso del tè risale a molti secoli avanti l'era cristiana, ma in Europa fu introdotta dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali sul principio del secolo XVI. Dumas padre dice che fu nel 1666, sotto il regno di Luigi XIV, che il tè, dopo un'opposizione non meno viva di quella sostenuta dal caffè, si introdusse in Francia. Il tè si fa per infusione e ritiensi che meglio riesca nelle teiere di metallo inglese. Un cucchiaino colmo è dose più che sufficiente per una tazza comune. Gettatelo nella teiera che avrete prima riscaldata con acqua a bollore e versategli sopra tant'acqua bollente che lo ricopra soltanto, e dopo 5 o 6 minuti, che bastano per sviluppare la foglia, versate il resto dell'acqua in ebollizione, mescolate e dopo 2 o 3 minuti l'infusione è fatta. Se la lasciate lì troppo, diventa scura e di sapore aspretto, perché si dà tempo a sciogliere l'acido tannico delle foglie, che è un astringente. Però se durante la prima operazione avete modo di tenere la teiera sopra il vapore dell'acqua bollente, estrarrete dal tè maggior profumo, ma se paresse troppo forte si può allungare con acqua bollente. L'uso del tè in alcune province d'Italia, specie nei piccoli paesi, è raro tuttora. Non sono molti anni che io mandai un giovane mio servitore ai bagni della Porretta per vedere se imparava qualche cosa dall'abile maestria dei cuochi bolognesi. E se è vero quanto egli mi riferì, capitarono là alcuni forestieri che chiesero il tè, ma di tutto essendovi fuorché di questo, fu subito ordinato a Bologna. Il tè venne, ma i forestieri si lagnavano che l'infusione non sapeva di nulla. O indovinate il perché? Si faceva soltanto passar l'acqua bollente attraverso le foglie che si ponevano in un colino. Il giovine, che tante volte lo aveva fatto in casa mia, corresse l'errore e allora fu trovato come doveva essere. Anche il tè eccita i nervi e cagiona l'insonnia, ma la sua azione, nella maggior parte dei casi, è meno efficace di quella del caffè e direi anche meno poetica nei suoi effetti, perché a me sembra che il tè deprima e il caffè esalti. Però la foglia chinese ha questo di vantaggio sopra la grana d'Aleppo, e cioè che esercitando un'azione aperitiva sulla pelle fa sopportare meglio il freddo nel rigido inverno. Per questo chi può fare a meno di pasteggiar col vino nella colazione alla forchetta troverebbe forse nel tè solo o col latte una bevanda delle più deliziose. Io uso un tè misto, metà Souchong e metà Pico.